Certo. 6 minuti e mezzo. Ho suonato tutto. Perfetto, una grande. Ho finito i segni. Ottimo. Assolutamente, secondo me, vabbè, ovviamente la lettura della partitura, anche l'approccio alla lettura è stato sicuramente condizionato dalla prima, quindi dal primo score game, però secondo me, nonostante tutto, a me sembra di aver individuato un altro approccio. Innanzitutto mi sembra di capire che questa è una mia interpretazione, quella che abbiamo iniziato più o meno tutti e tre qua. Questa è la mia impressione, poi sbagliatissima, probabilmente. Mi sembra che avete girato intorno, cioè un po' questa forma, poi alla fine sono venuti fuori un po' questi tre caratteri un po' principali, cioè queste tre figure, per esempio quella nota che faceva partire Travis, mi sapeva proprio di questo blu, di questo azzurro quadrato, questa onda quadra, questa non lo so, mi dà un po' questa impressione qua. Comunque questa figura del cerchio, comunque penso che abbia preso un po' tutti, no? Molto forte. Della reiterazione, un po' anche del percorso per arrivare a un punto, no? È stato quasi seguire una traiettoria per arrivare a un risultato, quasi un'aspettativa che anche le varie gestualità musicali che inizialmente a me hanno dato la cosa di un percorso su un determinato punto d'arrivo. Però non lo so voi cosa avete visto in questa cosa, però non so, un altro, per esempio, inizialmente quando ho fatto questa partitura pensavo più a dei gesti forti che arrivavano comunque, che sì, giravano dietro questa figura, ma poi si sbriciolavano alla fine, un po' seguiva un po' l'andamento dell'altra. Questa è un po' l'idea del fatto che comunque poi alla fine vanno a interagire in maniera fare un lavoro di magari quasi contrappuntistico qua, non lo so, che si mischiano, però svaniscono quasi nell'intensità e scompaiono nel nulla. Poi era questa l'idea quando ho disegnato, invece a me è sembrato quasi che l'avete interpretata quasi in maniera opposta. Questo è molto più interessante, che comunque siete partiti. Oh, questa è l'idea, come l'ho letta io. Io sono partita da quel segnetto nero con la coda, appunto. Con la coda? Sì, quello che bisognerebbe riascoltarlo. Sono partita da lì e poi. E poi alla fine, cioè, un po' sul cerchio, cercando di descrivere proprio un cerchio dentro dentro le corde, ma era difficilissimo perché trovavo un sacco di ostacoli, quindi il mio cerchio era comunque arrivata già dal generale dei cicli, perché eravate tutte e tre di regalo, sì, c'era la forma, sì, poi io ho provato, siccome il cerchio grande non mi riusciva tanto, allora ho provato a rimpicciolire il cerchio, però anche le forme esterne, sia la forma regolare, diciamo, il rettangolo, che è la forma un pochino più astratta a fianco. Io ho fatto un po' un'interpretazione scenica, cioè, di questo tipo. E devo dire una cosa, che mi è successa questa cosa, che mi sono un po' estraniata da quello che mi succedeva intorno, cioè mi sono un po' chiusa nel mio mondo. Non so se voi avete avuto la stessa di capitare, però era come se, perché ero presa era quello l'elemento con cui interagivo piuttosto che gli altri musicisti, che Travis e me il gioco era fra quello o voi. Però questo è interessante, perché può essere un elemento che distrugge l'interplay tra i musicisti e quindi li isola, e poi invece riascoltando magari un po' l'idea è che ci fosse un grande interplay alla fine, invece. Sì, Sì, ascoltando più dall'esterno sembrava che fosse attentissimo dentro un gioco tra voi tre. Però, però succede che magari tu stai pensando a un segno che ti spinge a fare un certo gesto e l'altro magari sta pensando a un altro segno che lo porta verso un mondo completamente diverso e quindi teoricamente può, cioè, poi c'è sempre interplay perché poi tu sì. riascoltando o ascoltando, nel vostro caso eravate presi dall'ascolto. Ma io sono partito da sinistra, da quei tre punti ci sono. Beh, infatti quello sì, è un gesto molto sì. netto. Poi l'ho fatto cioè, anch'io. Provavo... Io però penso anche che se alla fine del, anche del terzo gioco, diciamo, no, quando ci sarà l'esplorazione della terza partitura, cioè se noi diamo in mano i tre audio e le tre partiture a qualcuno che non ha giocato con noi, è chiaro che nessuno associerà. Quindi è un gioco esclusivamente personale, cioè diciamo è uno stimolo, perché comunque tu vedi un pallino e fai quello che sai fare, cioè non cioè, comunque, lo adatti alle tue modalità, può essere un gruppo di scuola, sì sì, però nel senso che cioè, il passaggio segno suono è sempre di questo tipo, cioè è una masturbazione, cioè veramente ognuno ci spara quello che vuole. Sì. È interessante naturalmente il meccanismo che si attiva come quello che dicevi, no? Dicevi anche tu, cioè rispetto che, a chi improvvisa però è interessante, cioè chi lavora sull'improvvisazione senza partitura è un elemento che è anche disturbante per certi versi perché ti porta fuori da, da certe abitudini che tu hai, no? Perché come dire, tu magari vorresti mandare la tua improvvisazione verso una certa direzione, però il fatto è che qualcuno ti metta davanti qualcosa che è un condizionamento. Ti porta sì, verso altre direzioni. Una costrizione. So. Cioè anche il fatto che l'ascolto si sia abbassato. Ma anche magari anche lì molto aperto. A me quello che intrigava in questo tipo di gioco era sicuramente creare comunque un altro tipo di piano, di discussione che fosse comunque diverso da quello dell'altra volta, dove comunque si partiva dal chi suona, suoniamo, 10 minuti, stessa tempistica, qua invece comunque c'è già un livello di costrizione, una serie di paletti che comunque ci impongono anche a dover fare delle, quasi delle scelte preventive. E delle analisi più precise. Delle scelte preventive quasi. Anche sì, se un mini briefing all'inizio infatti è sempre stato fatto. Invece loro hanno, hanno detto dall'inizio che avrebbero comunque, al di là del percorso che prendono per arrivare al cerchio, comunque il cerchio c'è, ci sono delle masse di suono all'interno di questo cerchio, poi puoi ragionare, infatti c'erano le pause, sì, era molto evidente sì, questa cosa. Sì, sì. Ok, so, manteniamo la tabella di marcia, che siamo in ritardo di 3 minuti. Tedesco! Sì, bisogna essere... bisogna essere assolutamente... Bisogna essere la rotazione... Allora, no, ho valutato una cosa. Secondo me è più interessante se io non suono. Nel terzo, prima della terza partitura, cioè che io non so... magari io risuono quando facciamo... dopo la terza partitura. Perché? Perché non mi voglio mettermi a discutere una cosa, una partitura che comunque ho fatto io, ci sono dei condizionamenti, anche delle cose che magari non... E lasciala un attimo che te la modifichiamo. No. Facciamo un collage tra... Allora, quindi suona Alessandra, uno del primo gruppo, uno del secondo, quindi fate estrazione. Direi magari quello del primo gruppo è un coso un strumento Alessandro flauto diciamo Adriano Giacomo sì. Adriano e Giacomo tutti strumenti sì dai senza elettronica facciamo tutto acustico è curioso.